Tú y yo. Uomo fragile, anche oggi perdonerai. Uomo fragile, anche oggi la testa girerai. E gli occhi chiuderai un'altra volta per avere soltanto un altro po' del suo calore. Da dove viene tutto questo bisogno d'amore che hai? Uomo fragile, uomo fragile. Da dove viene tutto questo bisogno d'amore che hai? Giorni di vent'anni fa, uomo fragile, ti ripeti che non perdono il suo l'attitudine, o più la paura di tornare in fondo a una vecchia buia solitudine. Soltanto un altro po' del suo calore. Gli occhi chiuderai un'altra volta per avere soltanto un altro po' del suo calore. Da dove viene tutto questo bisogno d'amore che hai? Uomo fragile, sei così fragile, forse da quei giorni di vent'anni.